pannolini, gabardini. Per i vecchi e i bambini come vuoi. A più nessuno sentirà gli odori tuoi. E gabardini, gabardini, gabardini sta con noi.